È uscito lo scorso 23 settembre il nuovo progetto della Feng Shui Project Bologna Moderna, volume 1. Per parlarne siamo in collegamento con Alex Jeremy della Feng Shui, a cui do il benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito. Vorrei partire un po' dall'inizio di questo progetto, dalle due tracce che hanno un po' anticipato il lavoro, insomma, come nasce Bologna Moderna. Beh, Bologna Moderna nasce innanzitutto dal fatto di essere stati adottati dalla città negli ultimi anni, visto che Stefano Nattidab, l'altro diciamo 50% del progetto in termini di produzione, risiede a Bologna. Anch'io sono stato a Bologna per un annetto ed è diventata una città per noi, come dire, la nostra seconda casa. E quindi abbiamo deciso in qualche modo di omaggiarla semplicemente tirando fuori quello che è stata la nostra esperienza di questi ultimi anni musicale, con approcci nuovi, soprattutto grazie al fatto di aver anche conosciuto delle persone, ottimi musicisti del panorama cittadino bolognese con cui abbiamo potuto fare queste esperienze, diciamo, di nuova fattura musicale per noi. Tu adesso citavi anche degli approcci nuovi, credo che un po' la trama del progetto sia la costante fusione tra la musica jazz e l'hip hop. Come si tengono insieme questi due mondi? Assolutamente, ti confermo questa liaison che per noi è stata un'evoluzione che in qualche modo sognavamo da tempo, a differenza dei nostri lavori precedenti, dove diciamo questa contaminazione abbiamo potuto diciamo esprimerla un po' meno per ovvi motivi. Nell'approcciarci a un prodotto strumentale, invece, diciamo questa cosa abbiamo potuto esternarla in tranquillità. Si legano per un fattore semplicemente, per quanto mi riguarda, storico, cioè l'evoluzione del jazz per quanto riguarda gli anni e le decadi che abbiamo vissuto, che viviamo, è una diretta evoluzione del jazz, almeno per quanto riguarda tutta una serie di approcci alla cosa. Quindi per noi è stato in qualche modo naturale poter mischiare questi generi e mantenere questo fil rouge vivo, grazie spero anche a questo lavoro e ai nostri lavori successivi, ecco. Il progetto è molto breve, sono circa 14-15 minuti, in cui però esce fuori un po' tutto il blu con cui forse avete cercato di dipingere Bologna. Possiamo definirlo un lavoro dall'attitudine blu, nel senso più jazzistico del termine? Assolutamente, mi piace questa definizione, ci piace anche perché connota ampiamente sia il mood del progetto, di questo prodotto, che la reference e le reference jazz a cui ci ispiriamo. È un prodotto breve a cui però diciamo ci sarà un seguito, ecco, con cui stiamo continuando in questa linea di approccio produttivo, siamo diciamo sul pezzo in questo senso, quindi è un lavoro breve ma intenso, brenso, come si dice dalle parti di Bologna e limitrofi, se non ricordo male. Ripeto, seguiranno altri lavori di questa fattura. Breve ma intenso, ma si sente anche un po' tutta la cura che avete messo in ogni, davvero in ogni dettaglio, a partire anche dal lavoro grafico. Cioè, vorrei chiederti di raccontarci un po' anche tutte le persone che hanno ruotato attorno al progetto, sia appunto sulle grafiche, ma anche poi altri musicisti o musiciste che hai citato tu prima, amici che avete scoperto Assolutamente. qui a Bologna. Certo, mi fa piacere che me lo chiedi, così poi ne approfitto per citarli e salutarli tutti e ringraziarli di aver partecipato con noi in questa piccola avventura, dal però enorme significato musicale e anche umano. Diciamo, per il comparto di musicisti, ci siamo affidati a Pier Francesco Melucci per quanto riguarda piano e sintetizzatori, Giovanni Tamburini per la tromba fricorno, Federico Marchi al sax, Gianluca Cesilai per quanto riguarda la chitarra, e poi appunto Natti Dab e Jeremy, basso produzione MPC, alla direzione un po' artistica, ecco. Per le grafiche, per quello che sono i contenuti media che abbiamo serbo, diciamo, sul progetto abbiamo affidato tutto quanto a Bernardo Raspanti, che è un ragazzo di Firenze, che però, diciamo, lavora e bazzica appunto anche nella città di Bologna, perché è anche un beatmaker, inserito nella scena appunto beatmaking e produzioni hip hop lo-fi della scena Centro Italia e quant'altro, quindi un ragazzo col grande gusto con cui abbiamo lavorato, devo dire, molto bene, abbiamo dato un imprinting grafico di cui siamo molto contenti. Mix e master li sono stati affidati invece a Frank Sativa e Simone Squillario su Torino, perché noi siamo comunque originari di Torino, e io sono tornato a stare a Torino e queste due persone avevamo piacere innanzitutto per la stima professionale di affidare questo lavoro a loro due. Jeremy, allora grazie mille, complimenti alla Feng Shui Project. Grazie mille a voi ragazzi, grazie come sempre per il supporto, un saluto a tutti gli ascoltatori anche.